Bene, siamo in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Questa che abbiamo appena ascoltato è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines, la trasmissione dei Tardis Magnetics, e appunto andremo avanti fino alle ore 21:30. Qui, come già detto, siamo in diretta dalle ore 20, da adesso 20:10, dai, e la radio in cui stiamo trasmettendo è Radio Onde Furlane. Bene, andiamo ora all'ascolto di un paio di brani di questa band di Milano, da un loro album uscito nel 2017. Loro sono i Seeker. Get down! Buonasera. Ma buonasera anche da parte mia a tutte e tutti che ci state ascoltando per questa puntata di giovedì 11 agosto di Zardins Magnetics. Non so se l'altra voce l'ha annunciato che questo è Zardins Magnetics, perché poi magari sfugge ed è una trasmissione storica dell'etere friulano e del ormai del web, diciamo anche fuori dal Friuli, e quindi è importante ribadirlo. Per chi vuole contattarci, come poi anche ripeteremo in fondo, tanto non fa male ripetere, vuole contattarci, vuole mettersi in contatto con noi, vuole così farci delle domande, delle apprezzamenti o disprezzamenti, la mail di contatto è sempre liberetutti@autistiche.org. E poi esistono anche altri canali, diciamo un po' più informali, e chi viene raggiunto da questa altra, diciamo, flusso di informazioni riceve una specie di anticipazione degli argomenti della puntata di volta in volta, no? E intanto fra poco sicuramente partirà un po' di musica in sottofondo, ma nell'attesa io continuo a parlare, perché appunto voglio cominciare anticipo, questo sommario della puntata di stasera, dove appunto era stato scritto vari testi, una rassegna di testi per cominciare a discutere o per avviare una discussione su che cos'è la lotta contro, cioè su che caratteri deve avere una lotta contro le carceri da un punto di vista della critica radicale e sul metterci in gioco rispetto a quello che si dice che si fa. Questa seconda parte, che vedremo più tardi, è praticamente ripresa pari pari da un articolo su una rivista che si chiama I giorni e le notti. Invece la prima parte, di cui adesso andremo un po' a parlare, volevo solo spiegarvi cosa intendo con punto di vista della critica radicale, ed è un insieme di testi di autori, si può anche dire corrente, diciamo, né politica né neanche del tutto culturale. Comunque è una approccio, diciamo, che erede di una parte del consiliarismo più critico, poi delle lotte antiautoritarie dal 68 in poi, sia in Francia che in Italia soprattutto, e poi appunto le vicissitudini varie dei movimenti e sempre più ristretti rispetto a quell'epoca. Non è semplice da definire, comunque è quell'atmosfera lì, essere in sintonia con quel discorso là, che abbiamo altre volte già affrontato. Volevo capire se partiva un po' di sottofondo, forse sì, dai, forse sta per partire. Però prima di affrontare il discorso mi vorrei dedicare un po' di minuti a un articolo che è uscito, come sempre appunto andiamo a pescare, su questo blog molto vivace che si chiama ilrovescio.info. È uscito un articolo l'8 agosto, che era esattamente lunedì. E non vi leggerò, se volete lo andate a leggere, e si intitola il cantico del gallo artificiale, e ci sono varie cose su questo bell'articolo. E, niente, e la rubrica dove questo articolo è inserito si chiama Il fanale oscuro. Ah no, colgo l'occasione, beh, lo dirò dopo. E, il cantico del gallo artificiale, dicevamo, è un articolo abbastanza breve, sono due pagine, ma una pagina e mezza, però è denso di riferimenti all'attualità da un lato, e sottofondo diciamo molto molto erudito, e questa sera raggiungeremo delle punte di erudizione mai sentite prima su questa trasmissione. Allora, il titolo, Il cantico del gallo silvestre, no? Sicuramente chi ascolta avrà delle reminiscenze di scuole. Il cantico del gallo silvestre è proprio il, sembra che si possa dire, apologo contenuto nelle operette morali di Giacomo Leopardi, in questa anche questa in realtà è molto breve, sono quattro pagine diciamo di apologo. Il cantico del gallo silvestre, si narra di questa entità gigantesca, il gallo silvestre, che era un essere soprannaturale della tradizione ebraica, cabalistica, eccetera, che di cui Leopardi insomma l'aveva scoperta là, con la cresta che il gallo tocca il cielo e naturalmente le zampe sono invece posate a terra. Al sorgere del sole, questo gallo silvestre si mette a parlare a tutti i mortali che appunto si destano dal sonno, e lui li sprona a svegliarsi, diciamo con intenti abbastanza così pessimisti, diciamo. In quel momento i mortali sono più, diciamo, vulnerabili al discorso del gallo silvestre, perché sono paragonabili a quando una persona è nella sua giovinezza, no? Il mattino è paragonato alla giovinezza e la sera alla vecchiaia. E lui li illumina sulla dura realtà, diciamo, del divenire della natura. Ovviamente che la natura tende alla distruzione, alla morte e a questo, a nient'altro che questo. Noi concretamente nell'articolo sul rovescio troviamo però due temi, che sono la necroeconomia di guerra, ovvero questi giorni tra il marasma delle notizie di guerra è emerso anche che ci sono in corso dei bombardamenti israeliani su Gaza, e gli eserciti statunitensi e israeliano hanno un problema quando, durante un bombardamento cosiddetto preventivo, si oltrepassa la soglia delle 29 vittime di civili, in quanto c'è una soglia, vedremo insomma, c'è una soglia per cui si passa dall'azione militare pure semplice a un'uccisione. Non proprio così, senza conseguenze. L'altro tema, oltre a questo, parallelo, ed è quello delle politiche della vita, per cui il cantico del gallo artificiale, no, diventa. E sempre in questi giorni, sempre da Israele, arriva la notizia che è entusiasta, perché ci sono una serie di successi nelle sperimentazioni in laboratorio sui primi tentativi di embrioni artificiali. E, Così, e se è pronta la regia, io ecco, adesso ci vorrebbe... Attendete e fate voi misteriose donne. Per quest'opera infernal io vi scongiuro che io sappia il mio destino e c'è la terra dovesse rinnovare l'antica guerra. Siamo di nuovo qui, non avete sbagliato, è sempre Zardins Magnetics, state tranquilli, che l'avevo detto, questa sera vi avremmo stupiti con effetti speciali ed era questa la principale bomba della puntata, perché niente, perché come ho detto cioè, ci sono dei riferimenti abbastanza eruditi in questo articolo che stiamo guardando, il Cantico del Gallo Artificiale, ed erano infatti le note, sono ancora in sottofondo, del Macbeth di Giuseppe Verdi, perché si parla in questa sequenza, tra l'altro, dell'opera un'apparizione che fa, diciamo, predice il futuro al protagonista del dramma, e insomma si parla di nessun nato di donna ti nuoce, no? È un verso dell'opera. Quindi le apparizioni predicono il futuro al protagonista del dramma, come sempre però gli oracoli sono necessariamente equivoci e non dicono fino in fondo come andrà a finire l'accadere, insomma, futuro e l'avvenire. Infatti poi scopriremo che chi sconfiggerà Macbeth non sarà un nato di donna, nel senso che sarà Macduff, che si scoprirà partorito con parto cesareo, va bene. E da qua si intende altro, però in questo articolo si allude a un ribaltamento di senso che viene operato dal linguaggio prima ancora che dalle tecniche biogenetiche, per cui appunto ci si chiede: ma che senso potrà mai avere l'espressione nato di cellula? Perché se si arriva con la sperimentazione di tecniche biogenetiche sulle cellule staminali queste strutture simili a embrioni umani, cioè comunque su mammiferi la sperimentazione è quindi equivalente dopo, poi insomma anche a quelli umani, e si sa che non ci sono in molti paesi come Stati Uniti e Regno Unito, non ci sono limitazioni sul discorso insomma della sperimentazione sulle cellule staminali, e quindi è molto semplice prevedere dove si andrà a finire, e per questo anche siamo molto in tempo per scegliere insomma su da che parte schierarci, se insomma appunto bussare sui tetti come fa l'esercito e l'aviazione, come fa l'aviazione israeliana, o salirci per resistere, o se arruolarci nell'esercito o nella struttura, insomma nell'apparato medico-militare israeliano, o disertare, se azionare la macchina assassina o sabotarla. E intanto di potenza ci stiamo ascoltando questi Pass Matters, band croata, esattamente di Pola, e questo è il loro album datato 2016, e You Can Stop This, Pass Matters. Yeah. emotions, taking the continents from every gaining control. We are true from another birth, yet what is to believe? Free, strength, and unity is the only way. Falling, I'm falling, deeper every day. The fucking world on the rise, makes you empty prey. Falling, I'm falling, deeper every day. The fucking world on the rise, makes you empty prey. Taking back all the best from every gaining control. We are the truth from another source, the only one who still believe. Believe, fight for unity is the only way. Falling, I'm falling, deeper every day. Your fucking world off in the rest. Ah sì, eccoci qua, Zardins Magnetics di giovedì 11 agosto, puntata ferragostana, non molliamo, se per caso qualcuno dovesse ascoltarci dal dietro le sbarre o da situazioni di privazione della libertà individuale, e noi gli mandiamo i nostri saluti calorosi, lo invitiamo insomma a tener duro, andare avanti. E, infatti adesso passeremo all'altro argomento, più appunto che vi preannunciavo all'inizio, sulla lotta anticarceraria. Questa trasmissione è promossa e realizzata da un gruppo anticarcerario che si chiama Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste. Nel senso che appunto quello che noi facciamo, appunto, lo sapete se ci seguite, è andare a dare appoggio e promuovere i tentativi di chi cerca di non piegarsi alla situazione, alla condizione di prigioniero. Ma questo appunto, questa sera vorremmo fare un po' un ragionamento, se ci riusciamo, su questo discorso della lotta anticarceraria, che se probabilmente nelle iniziative pubbliche, così nei momenti di in strada o in piazza, non si ha modo di chiarire, forse neanche la trasmissione Zardins Magnetics, una trasmissione radiofonica, forse non è la situazione migliore per approfondire questi aspetti, ma è comunque una situazione da un lato appunto privilegiata, perché diciamo può lasciare anche modo di, insomma, chi la fa di riflettere, di fare delle considerazioni, e d'altra parte è aperto, insomma, nel senso che chi ha l'ascolto si fa poi le sue valutazioni. Dunque Dunque, si diceva poco prima, poco fa, qualche minuto fa, con quell'articolo di un passaggio dal poetico nato di donna, insomma, dalla situazione umana, insomma, la situazione mortale nostra, e a un ingegneristico nato di cellula, che dove la scienza, la tecnica, insomma, soprattutto la tecnica vuole portarci, insomma, ci sta portando, non si sa se vuole, ma in modo ci sta portando. E questo passaggio ci dà l'occasione di saltare appunto su questa questione delle lotte anticarcerarie. E per farlo ci appoggeremo su un articolo uscito su una rivista statunitense, cioè su un blog statunitense, che si chiama Ill Will. Ill Will, diciamo, è una locuzione che adesso io non so rendere gergale, comunque sarebbe cattiva volontà, letteralmente Ill Will. E circa un paio di mesi fa è uscita questa traduzione dal francese di un volantino che era stato fatto per una riunione di gruppi anticarcerari di varie nazioni europee, sì, francesi, spagnoli, tedeschi, italiani, nel 2003, dicevo, a Torino. E il testo, cioè, era stato diffuso anche in italiano, essendo fatto il discorso, sì, la riunione, l'assemblea era stata fatta a Torino, ma io ho chiesto se esiste, insomma, se è reperibile questo testo italiano. Mi hanno risposto che loro l'hanno perso e che comunque hanno recuperato i frammenti dagli archivi personali francesi, perché appunto partecipava a questa riunione anche un po' famoso quegli anni là, era questa Tikkun, con le due Q, era un collettivo, diciamo, che si rifaceva agli autonomi francesi, che non è esattamente la stessa cosa dell'autonomia italiana, e in particolare sono più, diciamo, vicini a quello che si diceva prima come critica radicale, cioè sono comunque eredi delle teorie consigliariste. In italiano è stato pubblicato all'inizio degli anni 2000, sono stati pubblicati due testi di questo collettivo Tikkun, e uno era un libro dal titolo Teoria del Bloom, e l'altro era invece sempre un altro libro dal titolo Elementi per una teoria della Jeune Fille. Sono questi i testi principali che sono usciti in Italia, ma adesso non scendiamo troppo nei dettagli, era un po' così per presentarvi chi sono questi. Questo volantino, appunto, scritto in maniera molto diversa, insomma, da stile che avrà l'articolo del rovescio, che avrà l'articolo che cercherò di presentare per ultimo, e scritto in maniera così neanche slogan, come si può dire, un po' così ad appello, un po' così appellandosi, facendo slogan, diciamo, a proposizioni. Nella fattispecie sono dei paragrafetti, sono 21 paragrafetti, anche un po' così a stile aforisma, non proprio tutti, non è che c'è un filo che li unisce, ma alla proposizione 12, si parla di questa questione della cellula. Ve la leggo questa proposizione: non ci sono ex detenuti tra noi, ci sono amici che sono stati dentro. Il condannato, come condannato, colui che una volta rilasciato diventa un ex detenuto, è una figura romanzesca da romanzo giallo. Il prigioniero come prigioniero non esiste, esistono forme di vita che la macchina penitenziaria vorrebbe ridurre a nuda vita, a docili conserve di carne in scatola. Il mito della cellula esprime il sogno di non avere più a che fare con corpi animati da ragioni intrattabili, affetti violenti e logiche folli, ma con pezzi di carne inerti in attesa. Allora, il potere penale e il potere carcerario hanno come mito, come sogno, quello del modello cellulare, nel senso di cellula, proprio sì, come elemento biologico. Ridurre il divenire, quindi ridurre il divenire, il flusso di affetti violenti, logiche folli, a docili pezzi di carne inerte, in attesa. Il discorso dell'attesa è ripreso anche più sotto, più avanti di questo volantino, dove si dà per scontato che stare in prigione, privati della libertà, sì, di libertà, diritto di appunto individuale di liberamente appunto spostarsi, secondo sì, secondo le proprie sì, propria volontà, sia in realtà una punizione civile, no? Questo si dà, sì, cioè, si dà per scontato che dicevano anche in anni, negli anni appunto successivi alle lotte più appunto quelle più quantitativamente che hanno coinvolto molte, insomma, molte, molto masse, diciamo, dei prigionieri, parlando dell'Italia, appunto si parla della prima metà degli anni 70, poi seguì un'ondata repressiva e tutti questi esponenti del potere democristiano e diciamo, della magistratura, delle autorità, insomma, anche penitenziari, dicevano: ma sì, cioè, non è che perché questi protestano noi riduciamo la pena detentiva, possiamo ridurla a un albergo, no? Non è mica, cioè, già devono ritenersi fortunati che devono solo soggiornare in un posto. Non gli è stato, sì, non gli saranno tagliate le teste, non gli verrà tagliata la mano, insomma, non subiranno quello che subivano i nemici della società nel passato, però anzi devono ritenersi oltre che fortunati anche. Devono apprezzare questo gesto di rinchiuderli, perché gli permette di, diciamo, di elaborare una risposta educata, anche se loro non hanno i mezzi per. Diciamo, per avere l'educazione di una società civile, aspettando pazientemente lo scorrere della propria condanna, dimostrano che sono dei cittadini educati. Allora gli estensori di questo volantino vogliono appunto colpire, proprio, cioè andare al punto che ogni lotta anticarceraria è sempre una lotta contro la civiltà. Intesa nient'altro che come può essere intesa, cioè in questo senso, no? E quindi è vero che il carcere va combattuto, ma non perché appunto sia l'anello debole della società. La lotta è sempre importante, è sempre fatta di lotte parziali, ma perché va a ampliare l'orizzonte, la tensione, diciamo, rivoluzionaria, sia dei rivoluzionari sia di chi vuole rovesciare l'esistente e soprattutto contrastando da subito la repressione alla quale chi lotta va incontro, anche comunicando appunto con un'altra porzione di società, alleando la propria ribellione a quella di chi è rinchiuso e non si arrende, e non solo non si arrende, ma appunto quello che più infastidisce i cosiddetti civili insomma, è che il prigioniero turba con la sua sola esistenza, che non funziona, cioè un elemento della società che non funziona, che è fatto male, e quindi turba il normale scorrere dei rapporti sociali sussistenti, e con la prigione, col sistema penale, la società, più che garantire i diritti giuridici, non fa altro che costruire una mappa dei pericoli, di chi è pericoloso per lei, per la società, e attraverso il carcere e molti altri dispositivi cerca di sopravvivere e di rimandare a più tardi possibile il proprio crollo. the way the line is drawn, if you're an individual who kills someone, then you're obviously a criminal. Okay. If you're an organisation who does it, a government, then you're not a criminal. Zardins Magnetics di oggi, di stasera, di nuovo in diretta, sono le, praticamente in questo momento sono le 21. Dicevamo, combattendo il carcere, non stiamo mirando a un obiettivo morale, ma a una necessità strategica, quella che è quella di rafforzarci collettivamente, cioè potenziarci nella nostra capacità di intervento nella nostra città o nel nostro territorio, là dove possiamo direttamente agire. E non è secondario anche rompere, dissipare, diciamo, il carattere di deterrenza che ha il carcere, rompere questo terrore di finirci noi in galera, neutralizzare la repressione, il potere, diciamo, di l'angoscia che genera il solo pensiero, no? Di essere colpiti dalla repressione. Questo discorso che facevamo, appunto, saltando a questo, diciamo, queste come si dice, questi territori un po' lontani da noi, che era questo Tikkun, per certi versi, appunto, anche non del tutto così discutibile per certe cose che tirava fuori, che tira ancora, ma polemiche così, però appunto era da valorizzare questo discorso del potenziamento, insomma, della lotta non in maniera concepita in maniera così, l'abbiamo detto tante volte, insomma, a me sembra che l'abbiamo detto altre volte, questo discorso del che non facciamo il bene dei, non ci interessa fare il bene dei detenuti, noi appoggiamo quelli che sono, insomma, che non sono riducibili alla al silenzio, alla, sì, alla essere zombie, hanno sempre, hanno anche loro qualcosa da, insomma, da, che non gli va bene, che insomma, sono pronti a protestare, a rompere l'isolamento a cui sono ridotti. Questo discorso invece ci permette di tornare ai nostri lidi soliti, ma insomma conosciuti, e aria di casa. E è un articolo che ho scelto che affronta una questione generale della responsabilità, intesa nel discorso, insomma, quando c'è attività politica, ma che possiamo legare questo discorso di potenziamento che adesso dicevo. Ah no, ultima cosa, prima di chiudere con questo ticun, che non mi sembra di aver detto il titolo per recuperare questo, questo volantino, era la traduzione è preliminare a qualsiasi lotta contro le carceri, appunto è scritto in inglese, lo trovate su illwill.com. Invece mettiamoci del peso è un articolo della rivista anarchica I giorni e le notti, numero 8 del 2018. Parentesi, approfitto per ricordarvi che è disponibile anche il più recente numero di questa rivista I giorni e le notti, il numero 14, lo potete richiedere anche a noi direttamente. In questo articolo di qualche anno fa c'erano sul fuoco tanti argomenti guardati da diverse, cioè c'era un tentativo di guardarli da diverse prospettive, di mettersi insomma a esaminare tutte le sfaccettature del discorso. Il punto però era, secondo me, era come cercare di riattivare in ognuna di noi che siamo impegnati per abbattere questa situazione, insomma, in cui siamo, e per preparare insomma quello che invece secondo noi sì è altro completamente. Ci sono dei rischi, no? Prevedere, ecco, riattivare in noi la capacità di prevedere gli effetti e i rischi di quelli che sono tante volte delle prese sotto gamba problematizzare le cose, no? Quando insomma oggi come oggi più che mai si dice l'autore che si cerca di minimizzare, ci si trova a minimizzare il danno fatto, che è un danno fatto a tutti insomma il movimento rivoluzionario, di chi vuole appunto rivoluzionarlo. Si pensa di fare solo danno a qualcuno, invece è un danno a tutti. Quando ci sono parole che volano al vento, ci si scredita l'uno con l'altro, perdendo di vista l'obiettività di una questione, cioè quella che era in origine l'argomento, la questione, no? la cosa di cui si parlava, invece prendono sopravvento altre questioni, insomma il chi è che dice questa cosa, e c'è il pericolo di riprodurre nei nostri circoli, insomma così più piccoli, quella che l'autore chiama la dottrina dell'irresponsabilità, che è una dottrina che questa società ha organizzato da tempo, non è una casuale situazione, è un qualcosa appunto che la società ha preparato perché tutto il potere decisionale venga sempre demandato, sì, più che potere decisionale, le preoccupazioni vengano scaricate sui tecnici, perché quelli sono esperti, sanno come si va avanti, come si procede nelle cose. Noi abbiamo solo la diciamo, siamo liberi di non preoccuparci sulle questioni sociali e dell'umanità. Vengono allora riepilogati con, sì, devo dire, con attenzione, però anche allo stesso tempo con tanti consigli pratici, che però non vuol dire banali o semplificatori, ci sono anche indicazioni precise, strategiche, no? E allo stesso tempo si cerca di mettersi in diverse, come già avevo detto, in diverse angolature, e c'è una premura di scegliere i termini, no? Precisi, tenendo sempre tra l'altro aperte la dimensione dell'attualità e la dimensione, diciamo, più storica, più di cosa è stato il movimento nella sua, insomma, nel corso degli anni, dei decenni scorsi. E quindi appunto è la prospettiva che si dà è sull'essere, insomma, la sintesi che viene data è sull'essere, cercare di essere schietti nel dibattere, ma soprattutto rimanendo uniti. Io direi che vado a leggervi, per darvi un'idea, insomma, di cosa stiamo parlando, un piccolo brano di questo articolo, che, ripeto, si intitola Mettiamoci del peso, ed è tratto da I giorni e le notti, del numero 8, ottobre 2018. Allora, il problema non è organizzativo, bensì di riconoscimento tra comunità e quindi tra individui che tentano di sviscerare i problemi nel modo migliore e di ricerca di una base comune per andare avanti nella lotta con le caratteristiche che dicevo all'inizio, mutuo appoggio, rispetto, eccetera. Ma se non c'è questa voglia di riconoscersi e quindi ci si allontana per partito preso, si storce il naso per una parola scritta male in un testo, o per dei concetti non chiari o che si ritengono dannosi, sebbene possano aprire una nuova discussione, allora penso che il dibattito costante sia necessario e costruttivo. Ritrovarsi di persona può aiutare anche nel riconoscersi e capirsi. Magari si condivideranno dei percorsi con qualcuno di più, con altri di meno, ma senza ostacolare e avvelenare il lavoro altrui. La schiettezza è già un buon ingrediente in questo tipo di questioni. Se non diventiamo tutti e tutte, anche quando ci si riconosce come anarchici di qui e di là, o come rivista, sito, eccetera, responsabili di quello che si dice e che si fa, la fiducia nel tempo si smarrisce e la sfiducia aumenta tra gruppi e tra individui in genere. Avere lungimiranza può prevenire i problemi. Per lungimiranza intendo il vedere gli effetti di quello che facciamo e diciamo, soprattutto quando ci sono dei problemi seri in cui le male parole e l'incapacità di comprenderli possono portare a rischi, pericoli e fratture che non sono mai sani tra compagni e compagne. Far sì che il dibattito sia più limpido e chiaro possibile su tutte le questioni di cui vogliamo disquisire, in tutte le forme di propaganda e confronto. Ed in questo momento sembra che non sia così nel nostro movimento. Fare lo sforzo di essere uniti sembra che non sia sempre un obiettivo comune e raggiungibile. Come se essere in tanti ma consapevoli delle varie diversità, con obiettivi che sono simili se non uguali, fosse una cosa brutta per gli anarchici. Quando invece penso che l'ingrossarsi del nostro movimento e una maggiore influenza delle nostre idee siano sempre auspicabili per un cambiamento radicale della società e anche per quello che in tanti non credono più, cioè la rivoluzione sociale. Per tanti non si intende per forza un movimento ampio di massa dove l'obiettivo sia più l'ingrossare appunto un movimento che lottare, un formalizzare la struttura più che renderla qualitativa. Anche qui si intende che il dibattito tra compagni e il loro agire sia appunto rivolto alla qualità piuttosto che alla quantità. Semplicemente rafforzare i rapporti tra individui e gruppi e far sì che crescano non è per forza una questione da mettere da parte. Ma non demordo e non mi abbatto in questo momento in cui la società torna a noi dal peggio di se stessa. Quindi appunto era il discorso importante di messo in evidenza del dibattito, cercando di rimanere uniti, che praticamente spesso è una chimera. Quante volte nelle discussioni tra noi abbiamo sperimentato sovrapporsi nello sviscerare i problemi di una dimensione, diciamo, la dico io così, soggettivista, per cui si perde di vista la questione in esame e prevalgono così la fama, quello che dicevo prima, insomma, il chi è che lo dice, l'essere o meno in rapporti con la data situazione. E questa anche è una, diciamo, una tendenza alla curiosità che c'è, no? Cioè, posso dire, è l'esito di una tendenza alla curiosità, a un approccio curioso alle questioni, al gusto della ricerca di una cosa nuova come trampolino per un'altra novità, come fosse una distrazione, no? E poi trovarsi, cioè essere di qua, di là, ovunque, in nessun luogo, cioè non essere mai ben definibili rispetto a quello che si fa in un territorio, non prendersi la responsabilità, appunto, semplicemente, come dice l'articolo, di ciò che si dice e si fa, perché appunto, come dice qui l'autore, molte volte, insomma, ci deve essere del peso rispetto alle idee che in mille modi proclamiamo, se no non veniamo presi sul serio da nessuno e da noi per primi. E così, questo era un articolo molto, secondo me, stimolante, anche molto così, un po', non mi viene la parola meglio, di sofferto. Comunque era un tentativo appunto di fare chiarezza sui metodi, sui rapporti, insomma, sulle quali sono, dove è localizzato il problema, insomma, da che parte sta, insomma, dove si blocca la questione, insomma, da dove bisogna partire, ecco, per costruire. Sicuramente, anche appunto, dicevo prima, anche nei giorni e le notti più recenti ce ne sono altri, un altro paio di interventi su questa questione, quindi sicuramente ci torneremo. Per stasera io direi che può bastare, e lasciamo, insomma, adesso un po' di musica. Stiamo ascoltando i Jilted, band di Alessandria, questo è l'album Venti di guerra, e in precedenza abbiamo ascoltato due gruppi della scena narcopunk inglese degli anni 80, che erano i Conflict con l'album It's Time to See Who's Who Now, e i Dirt. E abbiamo ascoltato alcuni brani dall'album Nevermind Dirt, Here's the Bollocks. We'll be right back. Bene, siamo agli sgoccioli, siamo in conclusione di questa puntata dell'11 agosto di Zardins Magnetics. Sono qui, oltre che per salutarvi, per darvi i nostri contatti. E chi vuole riascoltare le puntate già andate in onda o insomma non ha modo di ascoltarla diretta può collegarsi al nostro blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, la troverà diciamo caricati i file audio con anche i riferimenti diciamo di quello che, di cui abbiamo parlato, più insomma più comprensibile e possibile. E poi abbiamo, ricordiamo il nostro contatto email che è liberetutti@autistiche.org. Per chi si trova ristretto nella sua libertà o ristretta, è possibile scriverci in forma cartacea alla casella all'associazione senza sbarre, casella postale 129, il codice di avviamento postale è 34121 Trieste, quindi associazione senza sbarre, casella postale 129 34121 Trieste. Inoltre c'è la possibilità di ascoltarci anche collegandosi al canale Telegram, e per farlo sì, dovete digitare l'indirizzo t.me/Zardins, è molto semplice. Con Telegram non serve, basta insomma nella mascherina digitare Zardins e ci trovate. Anche là appunto potete ascoltare direttamente insomma il file senza insomma andare sul blog. Direi che non c'è altro da aggiungere, e insomma noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima puntata, sempre il giovedì e sempre a partire più o meno dalle 20. E un saluto a tutte e tutti, alla prossima.